We've covered what the Buddha means by awareness, right awareness. Quindi abbiamo già scoperto, abbiamo già parlato di ciò che il Buddha intendeva per la consapevolezza, la giusta consapevolezza. And we really began to understand that it is a very specific type of awareness. Abbiamo cominciato a capire che si tratta di una di un tipo di consapevolezza molto specifica. In the meditation we are developing this right awareness. E nella nostra meditazione noi stiamo sviluppando questa giusta, questa retta consapevolezza. And it's an awareness which is looking at the teachings of the Buddha. È una consapevolezza che sta in qualche modo considerando, guardando gli insegnamenti del Buddha. Investigating. Li sta investigando. And specifically these three characteristics of existence. E nello specifico queste tre caratteristiche dell'esistenza. Impermanence, unsatisfactoriness, not self. L'impermanenza, la insoddisfazione e il non sé. So the Buddha is asking us to really cut down to the foundation of the whole problem. Quindi il Buddha ci sta chiedendo di arrivare proprio alla base, alle fondamenta di tutto il problema. And then we discuss this particular technique that we're using. Poi abbiamo discusso questa particolare tecnica che stiamo usando. And one of the benefits of the noting was that it separates you quite clearly from the object. Uno dei vantaggi di questa nota mentale è che ti separa abbastanza chiaramente dall'oggetto. So that in noting it, you're actually intellectually, even at an intellectual level, recognizing it as an object. Quindi il fatto di notarlo mentalmente a livello intellettuale è come se noi lo riconoscessimo come un oggetto. So when I say pain, pain, it's obvious that the pain is not the same thing that is calling it pain. Quindi quando noi diciamo dolore, dolore, allora è ovvio che il dolore non è la stessa cosa come ciò che lo sta chiamando dolore, ciò che lo nomina. We can see this as a continuation of a process which has begun at birth. Questo lo possiamo vedere come la continuazione di un processo che è iniziato con la nascita. Psychologists tell us that within the first 3 or 4 months of our lives we live simply in a two-dimensional bath of sensations. Gli psicologi ci dicono che entro i primi 2 o 3 mesi di vita come se noi fossimo immersi in un bagno bidimensionale di sensazioni, di percezioni sensoriali. And then very slowly the three-dimensional world appears and within it the first object. E poi molto lentamente comincia ad apparire il mondo tridimensionale e con esso il primo oggetto. So that this is, it seems, what the child is doing when it's reaching out for something. Quindi pare che sia proprio questo ciò che sta facendo il bambino quando allunga la mano e cerca di prendere qualcosa. So very slowly what was completely me becomes completely other. Quindi molto lentamente ciò che inizialmente era completamente io diventa altro. So then the child is very clear, this is me and everything else is not me. E quindi a quel punto per il bambino è molto chiaro, beh, questo sono io e tutto il resto è non sono io. Yeah. È altro da me. Yes, but there are things out there which definitely belong to me. Ma ci sono delle cose là fuori che sicuramente mi appartengono. Trying to take something that belongs to a 3-year-old away from a 3-year-old is a real war. Cercare di togliere qualcosa che appartiene, diciamo, a un bambino di 3 anni è una vera lotta. Yeah. I have some good fun with my nieces and nephews. Oh, mi diverto molto con i miei nipoti. So now what we are doing is we are objectifying the inner world in the same way that we objectified the outer world. Quindi quello che noi stiamo facendo è oggettivizzare il nostro mondo interiore così come facciamo con il nostro mondo esterno. And in so doing, we are discovering a different identity. E facendo così noi stiamo scoprendo una diversa identità. And this identity, the beginning of it, is the observer. E l'inizio di questa nuova identità è l'osservatore. And the observer has also the quality of being the feeler, the experiencer. E questo osservatore ha anche la qualità di essere ciò che percepisce, ciò che sente, ciò che conosce, ciò che sperimenta. Che esperisce. Mm. Now, to stabilize that position within us, in our meditation, remember, this is it's still a false position. Quindi, it's still a false position. Nello stabilizzare questa posizione, però ricordatevi che è ancora una falsa posizione. There is still a sense of self. Perché all'interno di questa posizione c'è ancora un senso del sé. Mm. Paradoxically, the very fact that we are aware of ourselves means that we cannot be what we are aware of. Quindi paradossalmente il fatto che noi siamo consapevoli di noi stessi significa che noi non possiamo essere ciò di cui siamo consapevoli. È sì. Chiaro? Un paradosso? Sì. No, ok. So, we now have to look at those factors which help us to stabilize that position. Quindi noi adesso dobbiamo guardare quei fattori che ci aiutano a stabilizzare quella posizione. And these are the seven factors of enlightenment. E questi sono i sette fattori dell'illuminazione. So very quickly they are that awareness. Quindi velocemente sono la consapevolezza. There is the effort which is always connected to concentration. C'è lo sforzo che è sempre collegato con la concentrazione. There's the calmness which is always connected to the interest. C'è la calma che è sempre collegata con l'interesse. And there's the quality of equanimity that is always connected to the investigation of the Dharma. E c'è la qualità della equanimità che è sempre collegata con l'investigazione del Dharma. You will notice that within these seven factors of enlightenment there is no love, no compassion, no sympathetic joy. Quindi vi accorgerete che all'interno di questi sette fattori dell'illuminazione non c'è amore, non c'è compassione, non c'è la gioia compartecipe. It's a hard path. È un duro sentiero. And the reason is that of course we presume that we are seeking our liberation from suffering out of compassion for ourselves. Questo è il motivo è che si suppone che noi stiamo cercando di uscire dalla sofferenza grazie ad una compassione che abbiamo per noi stessi. Hmm. The cause of suffering is desire. La causa della sofferenza è il desiderio. But the Buddha points out that the cause of seeking the end of suffering is suffering itself. Ma il Buddha indica che il modo per uscire da questa sofferenza è la sofferenza stessa. So we shouldn't give suffering such a bad name. Quindi non dovremmo dare alla sofferenza un nome così brutto. So let us go through these different factors. Quindi adesso vediamo questi sette fattori. So now, when the Buddha begins his teaching on how to establish this awareness, he does it in the most clearly in the discourse on how to establish awareness. Quando il Buddha quindi si appresta a insegnare come stabilizzare questo tipo di attenzione, ovviamente lo fa attraverso il discorso che si chiama sui quattro fondamenti della consapevolezza. Mm. Come stabilizzare la consapevolezza. Yeah. And I always like to point out that this discourse, which is the jewel of the collection, was taught to lay people. Mi piace sempre sottolineare che questo particolare discorso, che è chiamato anche il gioiello di tutti gli insegnamenti, è stato offerto ai laici. Mm. Have I mentioned this before? L'ho già detto prima. Okay, that's it. It's a habit. È un'abitudine. It's good to remember. It's good to remember. So, the first is this business of concentration. Quindi il primo fattore è questa concentrazione. So now concentration in the tradition moves towards these absorption states. Quindi nella tradizione la concentrazione va verso questi stati di assorbimento. Depending on our intention, there are two types of absorption. Quindi a seconda della nostra intenzione ci sono due tipi di assorbimento. But in terms of their strength of concentration, they are the same. Ma per quanto riguarda la loro forza di concentrazione sono equivalenti. So when we concentrate on an object to achieve absorption, such as metta, then we are establishing beautiful states of mind. Quindi quando ci concentriamo su un oggetto per sviluppare la concentrazione, come per esempio la metta, allora noi stiamo sviluppando degli stati belli della mente. And we can also, of course, use the breath. E naturalmente possiamo anche usare il respiro. And you can. There's a group in England called the Samatha Group. C'è un gruppo in Inghilterra chiamato il gruppo Samatha. And their whole practice is just Samatha. E la loro pratica è solo Samatha. Samatha is this developing of jhana. E Samatha è questa pratica in cui si sviluppano i jhana. And they use the breath. Di assorbimento. Sì. And they use the breath to achieve those jhanas. E usano il respiro per raggiungere quei jhana. By making the breath longer and longer and longer. E lo fanno facendo diventare sempre più lungo il respiro. I think they count up to 17, you see. Contano fino a 17. See, and just the breath itself can draw you into a state of peaceful quietness, you see. Quindi solo il respiro stesso può, come dire, attirarti in questo stato di concentrazione silenziosa, tranquilla. Quietudine. Quiete. The other type with the same strength of concentration is dependent on observing these three characteristics. L'altro tipo di concentrazione che ha la stessa forza è però dipendente dal fatto che si osservano queste tre caratteristiche, si investigano le tre caratteristiche. And they have specific names in the commentaries. Nei commentari questi tipi di concentrazione hanno dei nomi specifici. Yes, translated they are object absorptions and the three characteristic absorptions. Quindi uno è chiamato assorbimento su un oggetto e l'altro un assorbimento sulle tre caratteristiche. I have of course written about this in a wonderful essay on my website. Io ho scritto a questo proposito un articolo sul un saggio sul mio sito. But you'll get a better explanation from Upandita's book in this very life. Ma potrete avere una spiegazione migliore nel libro di Upandita proprio in questa vita. Now, this concentration is supported by effort. Questa concentrazione quindi è sostenuta dallo sforzo. Now, effort is just the amount of energy needed to keep the attention steady. Quindi lo sforzo è la quantità, la dose di energia necessaria per tenere ferma l'attenzione. If there is too much energy, then of course it becomes restlessness. Se c'è troppa energia, diventa irrequietezza. If there's too little energy and you're concentrated, you will immediately drop into sleep. Se c'è troppo poca energia e si è concentrati, automaticamente uno cadrà in uno stato di sonnolenza, di sonno. That is why, you know, when we're lying in bed, it's good to do a concentration exercise on the breath or on metta, you see, because you're lying down, there's not much physical energy, so you fall asleep with that mental state. Per questo è utile quando si va a dormire fare un esercizio di concentrazione sul respiro o sulla metta. In quel caso siamo sdraiati, per cui non c'è molta energia nel corpo e uno cade poi in uno stato di sonno. However, you may find if you do a longish retreat that in fact your concentration becomes very, very strong. Uno potrebbe notare, se fate un ritiro abbastanza lungo, che la concentrazione diventa piuttosto forte. And the energy just drops. L'energia cade. You allow the energy to drop. Quindi permettete all'energia di cadere. And you go into a state of unconsciousness, but your body is absolutely firm. Quindi entrate in uno stato di incoscienza, diciamo, ma il corpo è assolutamente fermo. And everybody who sees you says, that is an amazing meditator. Tutti quelli che vi vedono dicono, ah, quello è un meditante incredibile. But actually nothing's happening. Ma in realtà non sta succedendo niente. Complete waste of time. Un completo spreco di tempo. There's a story told in the Hindu tradition of a rishi who asks for a cup of water. C'è una storiella nella tradizione induista di un rishi che chiede un bicchiere d'acqua. And then he goes into this state. E poi entra in questo stato. 10 years later he wakes up. Dopo 10 anni si risveglia. And his first words are, "Where's the water?" Prime parole sono, "E dov'è l'acqua?" So this is just telling us that unconscious states are absolutely useless. Questo per dirvi che questi stati di incoscienza sono perfettamente inutili. So what would make the effort be too much? Quindi cos'è che fa sì che lo sforzo sia troppo? It would be the entrance of a wrong intention. Sarebbe l'ingresso di una errata intenzione. And this links to investigating the Dharma. E questo si collega con l'investigazione del Dharma. If we begin to try to concentrate, you see, if you're trying too hard, then this restlessness comes. Perché se si cerca troppo di concentrarsi, allora subentra questa irrequietezza, agitazione. And you may be doing that because you are too anxious to see, too anxious to observe and understand. E questo può succedere perché uno è troppo ansioso di vedere o di capire. Now, if we now move to the second pair, calmness and interest. Adesso andiamo alla successiva coppia, la calma e l'interesse. So now this interest, you see, the Pali word is piti. Questo interesse è in Pali espresso con la parola piti. And piti has just the general sense of a very happy state, a very happy mental state. Quindi piti ha un significato molto generale di uno stato felice. So it's also used for what's in a very beautiful absorption state. E quindi anche usato in riferimento a uno stato di assorbimento molto bello. But in the seven facts of enlightenment, it is the joy of interest. Ma nei sette fattori dell'illuminazione, piti corrisponde alla gioia che va con l'interesse. Curiosity. La curiosità. And you'll notice that it's coupled with calmness. E quindi vedrete che è associato con la calma. Because, in coppia con la calma. Because as you know, when you get interested in something, you tend to become excited. Perché come sapete, quando si diventa interessati a qualcosa, la tendenza è di eccitarsi, agitarsi. And this again brings up a wrong effort. E quindi questo sviluppa uno sforzo sbagliato. So this is the paradox. We have to put in effort, but we have to stay calm. Quindi questo è il paradosso. Dobbiamo mettere uno sforzo, ma dobbiamo anche stare calmi. Remember that the interest is a very beautiful, it's a joyful state to be interested in something. Quindi ricordate che l'interesse è uno stato gioioso, il fatto di essere interessati a qualcosa. Mm. And I would have thought for people of our culture, we have enough energy. E io potrei dire che per le persone della nostra cultura, beh, noi ne abbiamo abbastanza di energia. I know that sometimes in meditation it doesn't feel that way. Anche se durante la meditazione non sembra così. But I think that our culture makes us put too much energy into what we're doing. Credo che la nostra cultura faccia sì che noi mettiamo troppa energia in quello che facciamo. Mm. In the East, you see, it's very hot. In Oriente fa molto caldo. And there is an attitude of mañana, tomorrow. You know? E c'è questo atteggiamento di rimandare a domani. I remember when there was a man from the Ivory Coast who was... He was actually a French national, but he was from the Ivory Coast, came to join us. C'è stato un episodio di un meditante della Costa d'Avorio, cioè della nazionalità francese, ma veniva dalla Costa d'Avorio. And he ordained as a samanera, a lower monk's ordination. Quindi ha preso i voti come samanera, cioè come un primo grado, diciamo. And he came with that sort of Western energy of doing things. Ed è arrivato con questa energia occidentale del fare le cose. And he went out to the front one day where the temple is, where there's an open ground and where there's a hall. Quindi è andato una volta davanti, nella parte davanti del monastero dove c'era un tempio, poi c'era un campo e una sala. Mm. And there were many, all the leaves, it was covered with leaves from the trees which are constantly falling. Era tutto coperto di foglie che cadevano continuamente dagli alberi. And he thought, well, I'll do some sweeping. Allora lui ha detto, comincerò a spazzare via un po' di foglie. So he began sweeping and there were three monks sitting on a wall. Allora lui ha cominciato a spazzare, c'erano tre monaci seduti sul muro. And they just watched him. Lo guardavano. And he looked at them and they looked at him and they kept saying sadhu, sadhu, very good. Lui li guardava e loro guardavano lui e continuavano a dirgli sadhu, sadhu, ben fatto, ben fatto. And when he came to see me, he was so amazed. He said, you know, I've been brushing down, these monks are just sitting there, they sadhu, sadhu. Quando poi è venuto al colloquio e dice, io ero lì che lavoravo, che spazzavo, questi monaci che dicevano solo sadhu, sadhu. So we can see there the distinction between our two cultures a little. E lì si vede quindi questa differenza tra le due culture. However, I have to say that when the Mahasi Sayadaw came to Sri Lanka, the success of his meditators was quite, took him by surprise. Però devo dire che quando Mahasi Sayadaw è andato poi nello Sri Lanka, il successo che hanno avuto i meditanti l'ha un pochino l'ha sorpreso. Mm. And I think the reason was because they already had that sense of calmness, that sense of not trying to attain something. E io credo che sia dovuto al fatto che avevano questo senso di calma, questo non volere per forza ottenere qualcosa. Mm. And just raising enough interest to observe, so the insights began to come. E quindi solo, come dire, sviluppare abbastanza energia perché potessero cominciare a osservare. Questo ha permesso il sorgere dei vari insights, delle intuizioni. So, this is why I keep stressing this idea of just relaxing into the present moment. È per questo che io continuo a sottolineare l'importanza di questo rilassarsi nel momento presente. Mm. But to relax and yet to keep the awareness awake. Quindi rilassarsi, ma allo stesso tempo mantenere viva o sveglia l'attenzione, la consapevolezza. And to bring this into the sitting posture. E quindi di portare tutto questo nella posizione seduta. Mm. So that one feels relaxed and at ease. Quindi uno si sente rilassato, a proprio agio. Yeah. Consider, for instance, just being an objective spectator at a Roman gladiator show. Immaginate di essere uno spettatore che sta guardando una lotta tra gladiatori nell'antica Roma. So just like you see, these gladiators are beating each other up, cutting each other, slicing each other, you see? Just like our hearts, you see. Questi gladiatori si stanno facendo a pezzi, si stanno massacrando, tagliuzzando, tutto, proprio come il nostro cuore. Yeah, so I'm sitting here and my heart is going into all sorts of terrible, terrible states. But I remain objective, calm. Io sono qui e il mio cuore sta attraversando degli stati terribili, ma io sono qui in maniera, guardo in maniera obiettiva, calma. And then the last two pairs is this quality of equanimity with the investigation of the Buddha's teachings. E quindi l'altra coppia è questa equanimità con l'investigazione dei Dhamma, cioè degli insegnamenti del Buddha. Mm. If you read Jnanaponika's book, The Vision of the Dhamma. È un libro, se leggete il libro di Jnanaponika, La visione del Dhamma. I'm pretty sure it's translated into Italian. Penso che sia tradotto in italiano. Mm. You will see him argue, no? No, maybe not. You will see him arguing that the highest quality that we can develop is this equanimity. Lui dirà proprio che la qualità più importante da sviluppare è proprio questa equanimità. Mm. Because equanimity stops all the other factors slipping into their subtle enemies. Perché è l'equanimità che impedisce a tutti gli altri fattori di trasformarsi nei loro sottili nemici. Mm. For instance, it stops love slipping into attachment. Per esempio, impedisce che l'amore diventi un attaccamento. It stops this it stops this compassion falling into pity. E impedisce che la compassione diventi pietà. Pitiful. And joy into excitement. E che la gioia diventi eccitazione. So joy becomes excited when you start enjoying, when you start indulging in your sense of joy, you see. Quindi la gioia diventa eccitazione quando uno comincia a indulgere in questo senso di gioia, quando uno comincia a provare piacere. Now, this equanimity for the factors of enlightenment is that position of coming from a place of don't know or not sure. Quindi l'equanimità come fattore dell'illuminazione sorge da quella posizione del non so o non sono sicura. So you can see that this now opens up the curiosity. Quindi vedete come questo adesso apre la curiosità. If I have an idea in my mind, then it's as though the curiosity closes down to manifest that idea. Se io ho già un'idea nella mia mente, allora è come se la curiosità si restringesse perché close down. I can't remember what I said. E praticamente, se io ho un'idea preconcetta nella mia mente, la mente si chiude e fa in modo che quella cosa sia effettivamente così. Yeah. So, for instance, if I am looking for a rare bird, I won't see the other birds so much. Per esempio, se io sto cercando un uccello raro, allora io non vedrò tutti gli altri uccelli che ci sono. So this equanimity has to come from a place of yes, there are these three characteristics, but I'm not sure that I've seen them. Not sure. Quindi l'equanimità ci fa dire sì, va bene, ci sono queste tre caratteristiche, ma io non sono sicura di averle viste. I've not seen them to the depth that they ought to be seen. Oppure non li ho visti con la profondità con la quale dovrebbero essere viste. And when we have that sort of equanimity, it supports this very open-minded, open-hearted investigation. Quindi quando abbiamo quel tipo di equanimità, questo sostiene quel tipo di investigazione che apre la mente, apre il cuore. You can see that On one side we have all the passive qualities. Quindi vedete che da una parte abbiamo tutte le qualità passive. So we have concentration, calmness and equanimity. Quindi abbiamo la concentrazione, la calma e l'equanimità. And on the other side we have the active qualities. Dall'altra parte abbiamo le qualità attive. The effort, the interest and the investigation. Lo sforzo, l'interesse e l'investigazione. Now, what the Buddha says is that if we have right awareness, all these factors naturally arise in balance. Quello che il Buddha ci dice è che quando abbiamo la giusta, la retta consapevolezza, tutti questi fattori sorgono e si sviluppano nel giusto equilibrio. So, everything that I've said is actually not necessary to know. Quindi tutto quello che ho detto non è veramente necessario saperlo. I've just wasted half an hour of your life. Ho appena sprecato mezz'ora della vostra vita. Because once you know what this awareness is, this right awareness, these things arise naturally. Perché una volta che sapete cos'è la giusta consapevolezza, tutti questi altri fattori sorgono in maniera naturale. Now, in the discourse on how to establish his awareness, the Buddha begins by asking us to contact the breath. Quindi nel suo discorso su come stabilizzare questa consapevolezza, il Buddha ci dice di osservare il respiro, contattare il respiro. Yes, and he says, train yourself on the breath to establish calmness of the body, calmness of the mind. Quindi ci dice allenatevi sul vostro respiro per arrivare a sviluppare la calma nel corpo e la calma nella mente. There are three stages. The first one is just to contact the breath. Quindi ci sono tre stadi. Il primo è quello di semplicemente contattare il respiro. So one knows it's a short breath, a long breath, a tight breath, a loose breath. Quindi uno sa se è un respiro lungo, corto, se è teso oppure se è morbido. And as it begins to relax, you see, the effect of the breath on the body and on the mind is to calm everything down. Quindi come man mano che ci rilassiamo, il respiro si rilassa, allora l'effetto che ha sul corpo e sulla mente è quello di calmare. And then he says, you keep doing this until there is enough awareness and this intuitive intelligence for insight to arise. E poi dice, continui a farlo fino a quando non c'è abbastanza intelligenza intuitiva and awareness. E consapevolezza perché possano cominciare a sorgere questi insights, queste intuizioni profonde. In other words, we begin to see clearly that the breath begins and then it ends, and it begins and then it ends. In altre parole, cominciamo a vedere molto chiaramente che il respiro inizia e poi finisce. Nuovo inizia e finisce. And as we go more deeply in the breath, we begin to discover, we begin to wonder whether this is just one breath or many sections of the breath. E man mano che osserviamo così in maniera così ravvicinata il respiro, cominciamo a chiederci se è un respiro unico oppure se non è suddiviso in tanti piccoli respiri. Now, we do that usually at the beginning of our sitting. Di solito noi questo lo facciamo all'inizio della nostra seduta. But after a little while, suddenly, you know, we have these emotions, we have these feelings, the thoughts go berserk. Dopo un po' però cominciano ad esserci queste emozioni, le sensazioni, cominciano a impazzire i pensieri. So where's all this calmness now? How can I possibly become liberated with all this going on? E quindi adesso dov'è tutta questa calma? Com'è possibile che io mi possa liberare con tutto questo che sta avvenendo? As this awareness lifts itself to the observation post. Quindi man mano che questa consapevolezza si eleva e assume questa posizione dell'osservatore. All these factors of enlightenment are within the very awareness. Tutti questi fattori dell'illuminazione sono all'interno di questa consapevolezza. That is why we can maintain that observation post while the body, heart and mind go berserk. Per questo che noi possiamo mantenere questa posizione di osservazione mentre il corpo, il cuore e la mente impazziscono. So that's why we use the breath, is to access this position, and as soon as we're in that position, all the factors of enlightenment are there. Quindi utilizziamo il respiro per accedere a questa posizione. Quando abbiamo raggiunto questa posizione, allora tutti i fattori dell'illuminazione sono lì. So don't be confused by the fact that the body doesn't feel calm, the heart doesn't feel calm, the mind doesn't feel calm. Quindi non lasciatevi confondere dal fatto che il cuore non è calmo, il corpo non è calmo, la mente non è calma. The very fact of being able to maintain the position of the observer means there must be calmness in the observer. Il fatto di riuscire a mantenere questa posizione dell'osservatore significa che ci deve essere la calma nell'osservatore. Now, for those of you who can maintain that position long enough to reflect upon it. Quindi per coloro che riescono a mantenere quella posizione per un tempo sufficiente per poterci riflettere su. Ask yourself, what is it like to be the observer? Allora chiedetevi, ma che com'è essere l'osservatore? What's it like? Che effetto fa essere l'osservatore? Yeah, like for instance, what's it like to lie on the beach on a sunny day. Per esempio, come ci si sente a sdraiarsi al sole in una giornata di sole, sulla sì. Spiaggia in una giornata di sole. So now we have ideas, yeah? Oh, that's what it's like, you see? So sì. What's it like to be this observer? E allora ci sorgono delle idee. Ah sì, è così, è così. Allora, chiedetevi come ci si sente a essere nel ruolo, nella posizione dell'osservatore. So now, in this very discourse, the Buddha then, of course, explains how all the other establishments of awareness are to be investigated in the same way. E poi in questo discorso il Buddha spiega come tutti gli altri tre, diciamo, fondamenti della consapevolezza vanno investigati nello stesso modo. Sì. So then, having accessed this position of the observer, of awareness, then anything which arises within the field of that awareness, you see, that's to be observed. Quindi una volta assunta questa posizione dell'osservatore, allora qualunque cosa che sorga nella sfera della nostra consapevolezza può essere osservato. And remember, it's the paradox awareness, that it can also feel and experience things. Ed è, ricordate che è un paradosso di quella stessa consapevolezza il fatto che riesce anche a sentire, a esperire le cose. I can only hope my words have been of some assistance. Io posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. By your severe clarity concerning awareness. Attraverso la vostra seria chiarezza nello stabilire la consapevolezza. You will make the necessary insights. Avrete i necessari insights. To liberate yourself from all sufferings. Per liberare voi stessi da tutte le sofferenze. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu. Just for a minute there was hesitation. Per un attimo c'è stato un po' di esitazione. before the study. Yes.